Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Istruzioni per quello che sta per arrivare. Prendete un foglio di carta, una penna e scrivete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutti i numeri in fila. Sotto, in corrispondenza di ogni numero che sta sopra, scrivete 2, 4, 6, 8, tutti i numeri pari. Adesso i titoli e poi capirete il perché di tutto ciò. Benvenuti a Mebius. Gli infiniti di Ronconi, un nuovo libro racconta lo spettacolo teatrale di scienza per eccellenza che nasce dalla sinergia tra un grande regista, Luca Ronconi, e un grande scienziato, John Barrow. Che cos'è l'archeoastronomia? A Como, uno degli esempi più significativi e affascinanti d'Europa. 70.000 palme abbattute solo in Sicilia nell'ultimo periodo. Il responsabile di questa strage si chiama Punteruolo Rosso. A Bari si studia come sconfiggere questo dannoso insetto. Sono fatti di pelle artificiale e di un esoscheletro comandato dai muscoli dell'astronauta. A Torino si progettano i guanti per le tute spaziali del futuro. Io l'avevo visto insieme a tanti altri e poi purtroppo però non si è riusciti a vederlo più e fu uno spettacolo memorabile. Vi sto parlando di Infinities, spettacolo realizzato da Luca Ronconi su scrittura di John Barrow, ma adesso entriamo nei particolari. Perché? Perché ho qui ospite Pino Donghi. Buonasera Pino. Buonasera Federico, buonasera agli ascoltatori. Allora, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto tempo, facciamo un lavoro di comunicazione scientifica da altrettanto tempo, in forme diverse, a volte uguali in altre. E Pino era il 2002? 2002, sì. L'8 marzo, che era anche il compleanno di Luca Ronconi. A Milano, in uno spazio che è il deposito dei costumi della Scala alla Bovisa. Ho cercato, Pino, di trovare un modo per descriverlo, per dare un'immagine a chi non partecipò a quell'evento. Io lo chiamerei un gigantesco armadio pieno di cassetti, ripiani e scomparti, ma quando dico gigantesco, un armadio di 30-40 metri di altezza, era veramente enorme, te lo ricordi, no? Benissimo, immagino. Assolutamente, era uno spazio fantastico, devo dire anche a distanza di tempo, e inizialmente, come racconta sempre Ronconi, parlando di questo spettacolo con Sergio Escobar, con il direttore del Piccolo Teatro di Milano, che produsse lo spettacolo, avevano pensato al teatro studio, ma poi Ronconi si era ricordato come una sua debolezza, dice, di aver fatto la regia di una sfilata di moda in questi spazi. Riandò a vederli e capì che erano gli spazi adatti per questo spettacolo, a dir poco un po'. Cioè, uno spettacolo di quel genere fatto su un palco classico di teatro sarebbe stato completamente non esaurito, cioè lontanissimo da quello che si poteva raggiungere. Però fammi ricordare che è uscito un tuo testo, Gli Infiniti di Ronconi, edito da Scienza Express, che contiene delle tue osservazioni iniziali, il testo dello spettacolo e una tua intervista fatta non molto tempo fa con Ronconi, appunto, sull'origine di questo spettacolo. Allora, una prima cosa che dobbiamo dire è che questo ha aperto la porta al filone teatro scienze in Italia. In effetti non ce n'era mai stata prima, no? Sì, ovvero c'erano stati molti esperimenti di un rapporto risolto però in chiave didascalica, che ovviamente va benissimo, ma che Ronconi invece reinventa completamente, non tanto e non solo per il suo interesse nei confronti delle questioni scientifiche, che all'epoca c'era, me lo raccontò. Certo. Ma il suo interesse principale era di provare a forzare la drammaturgia teatrale dentro forme diverse, e per riuscire in questo gli serviva un testo che non appartenesse al canone, alla tradizione, e quindi si incuriosì delle dinamiche, delle questioni scientifiche, ci chiese all'epoca di dargli una mano a trovare un testo, proprio un paper. Forse vale la pena ricordare, perché stavo per chiederti questo, perché qui si era formata una squadra compresa da te, che allora era segretario della Fondazione Sigmatau. John Barrow è un teatrante, un uomo di grande uomo di teatro, che è stato un po' un unicum, perché mi sa che per fare una roba del genere bisogna che ci siano questi ingredienti. Anche considerando che L'ultima cosa che Ronconi voleva fare, tanto per intenderci, era qualche cosa che somigliasse, che so, a Beautiful Mind. Lui voleva proprio mettere in scena dei concetti. Questo e è il punto. Questa era la grande sfida. Allora proposi all'epoca a John Barro di fare qualche cosa sulla matematica. Lui, come racconto, scherzosamente mi chiese se doveva cantare la scala, perché lì per lì non gli era chiaro che cosa diavolo voleste da lui. Che cosa volessimo da lui, però invece intuì immediatamente uno che i paradossi del concetto infinito in matematica potevano prestarsi e due che pur lui scrivendo come scrive normalmente, Ronconi gli chiese proprio di scrivere come normalmente scrive un saggio scientifico, però era consapevole della committenza. Ecco, fermati un attimo Pino, abbiamo due brevi estratti, ne mando uno, sentiamolo. In un albergo convenzionale c'è un numero finito di stanze singole, se sono tutte occupate e non c'è modo di trovare posto senza mandar via uno degli ospiti che già occupano una stanza. All'albergo infinito le cose vanno diversamente. Immaginate che il viaggiatore si presenti alla reception dell'albergo infinito, che ha un numero infinito di stanze numerate. Uno, due, tre, quattro e così via, all'infinito. E che sono tutte occupate. L'impiegato della reception è perplesso. L'albergo è pieno. Ma il direttore rimane imperturbabile. Non c'è problema, dice all'impiegato. Chiedi al cliente che occupa la stanza numero 1 di spostarsi nella 2. Quello della 2 di spostarsi nella 3. Quello della 3 nella 4. 4, 5, 5, 6. E così, via, all'infinito. E così la stanza numero 1 sarà vuota per il nuovo ospite e tutti avranno una stanza. E questa immagine appunto dell'infinito, che basta spostarlo un po' e si libera subito un posto, era perfettamente inserita appunto in questo gigantesco armadio pieno di cassetti, no? Che era la grande metafora dell'albergo infinito, l'albergo Hilbert. Un testo che a rileggerlo, ecco, in questo volumetto che ho appena pubblicato c'è, diciamo, per la prima volta disponibile il testo originale di John Barro, che era disponibile in realtà anche nei programmi di sala del piccolo teatro quando lo spettacolo andava in scena, ma poi non è mai stato più pubblicato. Ecco, anche a rileggerlo adesso è un testo che tutto sommato mostra delle difficoltà, insomma, per chi voglia leggerlo, ma sì, che invece emergevano come questi concetti e queste difficoltà venivano sciolte dalla soluzione, dalla invenzione teatrale in una maniera formidabile. Cioè tutto quello che tu vivevi in quello spazio, dai contenuti che ti arrivavano all'ambiente in cui eri e il fatto che ti spostavi in diverse stanze perdendoti nei messaggi che arrivavano, ti dava questo senso del perdersi appunto con l'infinito. C'è un secondo estratto che a mio parere è ancora più simbolico e anche divertente nel finale, sentiamolo. Siete così soddisfatto di questo servizio che tornate all'albergo infinito la volta successiva che vi trovate in città. E questa volta avete con voi un numero infinito di altri amici. Di nuovo, questo albergo così popolare è pieno. Ma ancora una volta il direttore non si preoccupa. Sposta il cliente della stanza numero 1 nella 2. Quello della 2 nella 4, quello della 3 nella 6, quello della 4 nella 8, quello della 5 10 e così via all'infinito. Così tutte le stanze dispari saranno libere e sono in numero infinito tale da poter accogliere voi, i vostri infiniti compagni di viaggio, ma senza difficoltà. Inutile dire che il servizio in camera a volte è un po' lento. Mi sembrava che questa battuta finale fosse quanto mai significativo. Pino, io lì è la prima volta che ho visto così tanta gente ragionare sul fatto che i numeri pari, che sono infiniti, stanno in corrispondenza con i numeri pari e dispari, no? E quindi scoprire il fatto che ci sono infiniti evidentemente più grandi di altri, ma che sono ugualmente. Scoprire e, come dice Ronconi, sconcertarsi. Sconcertarsi, sì. E quindi è quello che lui voleva restituire, non era la spiegazione didascalica di un paradosso, di un teorema matematico, ma lo sconcerto che si può prendere di fronte alla riflessione che l'infinito e gli infiniti numeri e gli infiniti pari e gli infiniti dispari, che sono infinite tanto quanto gli infiniti numeri, ti possono dare. Questo era il suo tentativo e questo sicuramente è quello che gli è riuscito di fare. Ricordo il libro Scienza Express Editori, Pino Donghi, Gli infiniti di Ronconi, e contiene anche appunto il testo originale dello spettacolo. Grazie Pino Donghi e buon lavoro. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Gli antichi guardavano il cielo come lo guardiamo noi, con grande entusiasmo, ma credo che il loro stupore, la loro attenzione fosse molto di più. Forse con maggior curiosità, perché non avevano gli strumenti necessari che abbiamo noi. Certo. E bisogna capire come facevano. Forse per la prima volta Mebius, o non lo so, forse ne abbiamo parlato in un Archeomebius. Ecco, parliamo di archeoastronomia con un archeoastronomo che è qua di Milano, dell'Osservatorio Astronomico INAF di Brera, Milano. Diamo il benvenuto ad Adriano Gaspani. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Cosa facciamo? Un'introduzione, visto che forse abbiamo parlato tantissimi anni fa, su che cos'è l'archeoastronomia, prima magari di raccontare qualche bel esempio che abbiamo anche in Italia. L'archeoastronomia è una disciplina relativamente giovane, nel senso che comunque i primi archeoastronomi sono del 1700, in ambiente britannico, che si occupa di ricostruire l'idea del cielo e del cosmo delle popolazioni antiche e i loro sistemi di misura del tempo. Dobbiamo ricordare subito una cosa, che gli antichi osservavano il cielo per due o tre motivi. Cioè, primo era che il cielo si faceva guardare da solo, considerato che non c'era inquinamento, quindi basta, voglio dire, anche adesso basta andare in alta montagna o in mezzo al mare, dove non c'è inquinamento luminoso e si capisce che cos'è praticamente la sfera celeste, con il risultato che quindi l'osservazione del cielo aveva un grossissimo risvolto religioso. E questo ha spinto, per esempio, a costruire siti particolari. Mi vengono in mente per esempio i siti megalitici di cui l'Europa è piena, megalitici proprio perché fatti con grandi pietre portate da lontano, quindi grande fatica, organizzazione sociale che doveva essere richiesta, nonostante si era nel terzo millennio avanti Cristo. Il più celebre forse è Stonehenge, o sbaglio? Stonehenge è il classico, sì, che conoscono praticamente tutti, perché è molto, molto trattato dai media, eccetera, però lui è uno. Ne abbiamo, molto ce ne bello, sono tantissimi. Ma ce ne sono tanti, ma anche in Italia ce ne sono, dalla Val d'Aosta alla Puglia. Ecco, per cui, tornando ai nostri antichi osservatori, il cielo veniva sistematicamente guardato e studiato. E questo è avvenuto in maniera, diciamo, più stringente nel momento in cui l'uomo è diventato agricoltore. L'agricoltura prevede scadenze Per la ritualità delle stagioni. Sì, ma se io devo seminare una certa pianta, eccetera, devo farlo nel momento giusto, perché altrimenti o non cresce oppure non va a maturazione perché la stagione è peggiorata e siamo troppo avanti. Chiaro, è chiaro. Certo. E quindi è chiaro che l'unico sistema di riferimento oggettivo che funzionava era quello celeste. E qui non stiamo parlando dei calendari, i calendari vengono molto dopo. Il calendario avviene nel momento in cui questa cosa viene codificata in un sistema fisso. Il contadino guarda il cielo per determinare i periodi più adatti. Ovviamente, siccome l'uomo antico è molto legato alla religione, chiaramente esisteva poi l'esponente della classe sacerdotale che sacralizzava tutto. Certo. Con il risultato che quindi è chiaro che se il seme gettato dopo un po' cresceva bene, era merito degli dèi, era merito degli eventuali sacrifici che il sacerdote della popolazione, della tribù, compiva. Il cielo è sempre stato ritenuto il luogo di residenza degli dèi, perché se si fa un sacrificio e quindi si brucia un'offerta, qualcosa, il fumo va su. Giusto. Per la mentalità di allora, ovviamente, che non è la nostra, non avevano la tecnologia di adesso. E poi, vabbè, certamente tutto l'alone di mistero, chiaramente. Questi insediamenti erano appunto con pietre, costruzioni, andando avanti nel tempo sono anche così degli strani edifici triangolari con al centro delle scalette, erano fatti perché certo non avendo strumenti ottici dovevano usare delle architetture per puntare verso il cielo, era così, no? Sì, allora prima di tutto noi abbiamo traccia di sistemi di osservazione del cielo già nel sistemi fissi, voglio sì, dire, già nel quinto millennio avanti Cristo in tutto il centro Europa e sono i cosiddetti megaxili, cioè sistemi megalitici ma fatti di legno. Ah, di legno. Con i bastoni. Esatto, quindi settimo millennio, sesto millennio, quinto, quindi voglio dire 1000-2000 anni prima di Stonehenge. Alla confluenza fra l'Isara e il Danubio ce n'erano ben sei che sono stati poi chiaramente scoperti e studiati perché il legno si decompone ma poi resta sotto terra sotto forma di polverina, fra l'altro molto ben databile perché con radiocarbonio essendo organico il legno si riesce molto bene. Successivamente siamo passati all'utilizzo delle pietre per fare praticamente le stesse cose, per costruire praticamente siti prevalentemente a geometria circolare. E noi oggi in realtà vogliamo parlare di un sistema che vede sia il legno che la pietra, perché lei vorrebbe raccontarci di un sito particolare vicino a Como. Una ci racconta bella storia, prima una di bella tutto, storia. Come che fatto? Diciamo che rappresenta un unicum del suo genere, è stato scoperto nel 2007, casualmente fra l'altro, nei dintorni di Como. Ah. Nelle vicinanze di Como, siccome erano iniziati i lavori per la costruzione del nuovo ospedale, ormai finito e funzionante, eccetera, a un certo punto, durante gli scavi, scavando, sono cominciate a emergere pietre. Pietre allineate secondo uno schema curvo. Mm. Chiaramente, continuando lo scavo, è emerso un triplo cerchio di pietre di 68 metri di diametro. Molto grande. Bene, allora ci molto spieghi grande. Bene. Rispetto al solito che troviamo in giro. E fra l'altro non saliva al Neolitico questo, bensì all'età del ferro, quindi al sesto millennio avanti Cristo. Ah, ecco qua. Quindi epoca celtica. Ci racconti un po' com'è fatto? Allora, questo cerchio praticamente, immaginatevi il bersaglio per le freccette. Sì. Una cosa simile. Quello giallo e nero. Però, ovviamente di 68 metri di diametro. E allora, la parte più esterna è delimitata da due corsi di pietre circolari, paralleli, che praticamente stabiliscono un corridoio. Questo corridoio fatto era pavimentato con delle pietre. Mm. Dopodiché all'interno invece una piattaforma presso il centro di 27 metri di diametro, mi ricordo, la cui metà settentrionale era pavimentata con delle pietre. Mm. La metà meridionale solo con terra battuta. E anche questo avrà avuto un significato. Sì, e fatto, come ho già detto, è un unico, perché non esiste un altro in tutto il mondo. Questo ha creato un mare di problemi, un mare di interrogativi, perché la cultura a cui può essere ascritto non ha mai costruito, salvo in quel caso, oggetti così grandi. Comunque, tornando alla descrizione del sito, oltre ad avere la piattaforma semi-pavimentata in mezzo, cioè pavimentata solo la metà nord, l'area compresa fra il doppio corso di pietra e la pavimentazione è stata divisa con una raggiera di settori di 72 settori delimitate da pietre piccole. Quindi dall'alto lo immaginiamo proprio come un bersaglio delle freccette. Certo. Esatto, diviso così i settori colorati con riporti di terra di diverso colore. Doveva essere fra l'altro bellissimo da vedere. Doveva essere anche bellissimo, molto fra l'altro bello. Doveva essere tenuto in ordine in una maniera efficacissima, perché un sito così grande, esposto alle intemperie, eccetera, è così complicato dal punto di vista della geometria, andava in rovina con molta facilità. Certo. Ecco, e la funzione di tutto questo? Allora, l'analisi archeologica ha stabilito che è durato 88 anni, circa 100 anni, insomma, margini d'errore. E poi è stato dismesso, manutenzionato bene e coperto. La sua funzione, l'unica possibile allo stato attuale delle ricerche, è quella astronomica. Perché non contiene tombe di quel periodo, contiene tombe di un secolo dopo, galliche e romane, ma sono nello strato superiore. E la sua particolare struttura è apparso subito chiaro, dopo è stato approfondito e studiato ovviamente, che doveva essere destinato a un utilizzo astronomico. ma un utilizzo non tanto simbolico quanto proprio di osservazione. Infatti il corridoio esterno permetteva a un osservatore di muoversi rimanendo sempre alla stessa distanza rispetto al centro. Al centro. Nel centro è stata trovata una buca dove era infisso un palo e questo serviva da collimatore, nel senso che un personaggio che potesse essere della classe sacerdotale o no, non lo sapremo mai, muovendosi per esempio all'alba poteva traguardare il punto di levata del sole giorno dopo giorno e quindi durante tutto l'anno. Durante tutto l'anno, e il sistema dei settori serviva a lui come un sistema di riferimento. Certo. Sì, in questo modo, sì. L'utilizzo rispetto è chiaro. Ai settori, il sole giorno dopo giorno si muoveva avanti e indietro, andando percorrendoli due volte in un anno. Senta, le chiedo questo, prima che i comaschi si precipitino fuori... Lo conoscono molto bene. Lo sanno, perché allora chi non è di Como dirà andiamo subito a vederlo. Invece non si può vedere adesso. Allora, dopo gli scavi... l'ospedale chiaramente è stato finito, ma lui è stato preservato. Ah, meno male. Però in attesa di poterlo mettere a disposizione delle visite del pubblico, è stato coperto. Quindi attualmente è un prato circolare. Va bene, protetto, sappiamo protetto, che è lì tranquillo. Esiste un progetto per la valorizzazione, ma il fatto che sia così grande... implica e il fatto che sia anche molto fragile, nel senso che sì, una manutenzione sopra, è chiaro, la manutenzione deve essere fatta anche adesso come lo è fatto nell'antichità, quindi richiederebbe insomma una grossa copertura, esatto, una tensostruttura o qualcosa del genere, certo. Che farne una di 68 metri, cioè che includa un sito di 68 metri, ha dei costi. Ecco, lei ha la fortuna ovviamente di averlo visto scoperto, magari qualche foto se ce la invia la mettiamo sul sito, ecco. Bisogna insomma, coprirlo, bisogna tirarlo adesso fuori. Bisogna tirarlo fuori e invitare l'amministrazione di Como a renderlo pubblico a tutti i cittadini. Tutti quelli del lago bisogna che contribuiscano. Facciamo così, ecco. Ma questa è una richiesta fra l'altro che è già stata fatta intanto ricompare sui giornali. Va bene, allora ne parliamo anche noi sperando. Andate a chiedere. Ecco, esatto. E poi Gaspani, senta, invece noi ci risentiamo per qualche altra storia, perché ne avrà tantissime da raccontarci. Va a presto, bene. Buon grazie. Lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Beh, ma cos'è il punteruolo? Una specie di scalpello, solo che c'ha la punta acuminata. Ed è rosso anche. No, in generale. Tu dai delle martellate e fa dei buchi micidiali. Qui non c'è bisogno del martello. Qui non c'è bisogno del martello, perché si tratta di un insettino che sta combinando, un insettino killer, diciamo, che sta combinando un po' di stragi, di disastri. E le vittime sono le palme. Chissà quanta gente in questi giorni starà camminando sotto i viali alberati, lungomare di tutto il nostro paese, e non sa che purtroppo le palme stanno passando un bruttissimo periodo. Qualcosa si sta facendo però, infatti all'Università di Bari hanno brevettato anzi una soluzione, direi prima di inquadrare forse il grosso problema. Sì, lo facciamo con Francesco Porcelli, intanto buonasera. Buonasera. Benvenuto. Buonasera, lei è entomologo dell'Università di Bari. Partiamo magari inquadrando chi è il punteruolo rosso e il fatto che forse ha mietuto 100.000 vittime. Le chiederei anche una cosa, se ce la facciamo. Questo mostro qui, com'è fatto? Purtroppo qui la radio non ha le immagini. Non ma ha i colori. No, com'è fatto? Quanto è grande? Stiamo attrezzando. Dunque, si tratta di un piccolo medio coleottero, quindi cioè? Siamo tra i 2,5 cm e i 3,5 cm di lunghezza. Sì. È un animale consistente al tatto, vellutato come superficie, e di un colore tipicamente rosso carico, rosso sangue, potremmo dire. Quindi è abbastanza visibile, forse? È visibile, sì, è un insetto che può essere ritenuto nelle nostre regioni grande. E ha dei puntini neri, forse anche? Può avere una serie di macchie nere speculari sui due lati sinistro e destro del corpo, però può anche essere quasi interamente rosso o anche al limite dell'arancio. Potrebbe essere anche carino se non fosse così cattivo. Io sono un po' di parte, però è chiaro che per me è bello. Certo. Però che è cattivo lo pensa anche lei. Beh, è cattivo, lui fa il suo lavoro, lei dice. Non sentono, diciamo, loro reagiscono, quindi non hanno... Cattivi siamo noi, casomai. Diciamo. Perché lui si ciba di che cosa in realtà? Dunque, lui ha fatto una cosa semplice che fanno tutti gli animali. Quando gli si offre delle sorgenti di cibo, le utilizzano. Quindi questa storia è iniziata circa un secolo fa, quando gli inglesi hanno iniziato a coltivare nell'area di Singapore la palma da cocco come pianta industriale. Comincia da là. In quel momento è iniziata l'infestazione, perché questo animaletto ha trovato, invece che poche rare palme qui e lì, ha trovato tante palme tutte insieme. Naturalmente ha fatto slurp. Si è sfogato. Certo. Si è sfogato, poi si è, la popolazione è cresciuta e si sono spostate in India sulla palma da dattero. Hanno attraversato verso ovest, come fanno quasi sempre questi insetti che con un brutto nome si chiamano alieni, come se venissero da Marte. E infine hanno raggiunto recentemente la palma da dattero, quindi Arabia Saudita, vicino Oriente. Quindi non è che fanno molta selezione, nel senso che esistono tante specie di palme e loro si stanno piano piano adattando a tutte. No, loro in realtà hanno utilizzato sorgenti alimentari, cioè piante ospiti sempre migliori da un punto di vista alimentare. Quindi le hanno trovate perché le abbiamo fornite noi, soprattutto coltivando le piante, perché è ovvio che come un bambino ben nutrito cresce di più, anche una pianta coltivata con acqua, con cime, cure, è più saporita, è più grande, più saporita, è più tenera. E quindi questi animaletti hanno trovato cibi sempre migliori, fino a, sicuramente questo è stato dimostrato, a selezionarsi come individui particolarmente aggressivi, particolarmente prolifici, particolarmente capaci di utilizzare una risorsa, diciamo, abbondante. Per essere chiari, stanno sempre nell'intorno delle palme oppure potrebbero arrivare anche alle mele, le pere, gli aranci? No, direi proprio di no. Ok, quindi però sono sulle palme. Delle palme è un intorno grande. Cos'è che gli piace nelle palme? Perché sono così? Dunque, loro intanto hanno un ruolo in natura che è quello di eliminare le piante danneggiate. Questa, diciamo, è la loro natura. Ma loro in che senso fanno? In che senso? Nel senso che loro scelgono per deporre quelle che sono delle lesioni sulla pianta. Quindi, se possiamo immaginare, passi un uragano e sbranchi delle foglie o producono lesioni, loro arrivano e depongono in questi tessuti freschi, morbidi, ricchi d'acqua, in tempi rapidi, in poche ore. E diciamo che la fanno fuori. La fanno fuori perché è una pianta compromessa. Ok. Quindi, noi però abbiamo inventato, diciamo, l'uragano naturale quando potiamo le piante. Eccolo lì il guaio, certo. Hanno assimilato un'operazione culturale che noi facciamo, l'hanno assimilata a un evento naturale e quindi hanno dimostrato la loro natura su quello che, con cui avevano a che fare. Cioè noi potando lasciamo, come dire, i vasi scoperti della pianta e facciamo in modo che, insomma, loro possano attaccarsi. E lì loro cosa mangiano? La linfa? Lì loro, in realtà, gli adulti mangiucchiano un po' di roba dolce in genere, potrebbero anche mangiare, che so, banane, frutti maturi, banane, mele. Quello che fanno però, che è importante, è che depongono le uova. Ah. Quindi non è, diciamo, il danno sulla pianta, diciamo, di arrivo non è dovuto agli adulti, perché sì, anche loro mangiucchiano un po', ma è irrilevante. Quello che loro fanno è deporre un certo numero di uova, possiamo ragionare intorno alle 10-12 uova per femmina, e queste uova vengono infisse nel primo centimetro della parte lesionata, e da queste uova poi nascono delle larve che si approfondano nella pianta e sostanzialmente intanto la consumano, ma soprattutto per quello che riguarda la palma delle Canarie, che poi è stata in ordine di tempo l'ultima specie infestata, la fanno marcire. Quindi se in questo caso colpiscono le nostre piante sane che magari sono state potate, le fanno fuori in qualche modo, c'è poca, diciamo, possibilità. E rapidamente anche. Elevata probabilità che vengano, che la pianta ci resti, diciamo. In poco tempo, e quel che è peggio, però il sintomo è tardivo, nel senso che la pianta viene infestata per 3-4 mesi e non si vede assolutamente niente. Quando noi vediamo queste foglie che si abbassano, ombrello aperto, che è poi il sintomo caratteristico, in realtà la pianta è già andata. Okay. Ecco, quindi allora diciamo che la disinfestazione post non è quasi possibile. Questo, allora, ecco, cosa avete pensato? Introduce, diciamo, quella che poi è una scelta strategica, cioè quella di effettuare comunque sia, la cosa essenziale è che gli interventi siano preventivi e protettivi. Cioè chi spende, chi fa qualcosa, spende del tempo, spende dei soldi, deve sapere che sta proteggendo le piante sulle quali agisce, perché altrimenti non è una cosa proponibile. Sì. Se io lavoro sulle mie piante ma proteggo quelle del vicino, è chiaro che nessuno fa. No, certo. Diciamo. Quindi a questo punto ci siamo inventati di fare delle iniezioni sostanzialmente alle palme, cosa che, diciamo, non è nuovissima, ma la cosa nuova consiste nel fatto che queste iniezioni sono fatte con l'insetticida tal quale, quindi non diluito, e che l'iniettore resta utilizzabile per anni. Siccome le palme delle Canarie in particolare hanno circa un quintale d'acqua per ogni metro di stipite, quindi in realtà bisogna calcolare la quantità di insetticida in funzione della dimensione della pianta. Quindi voi, diciamo, avete fatto dei calcoli, avete fatto degli studi per cui dosate? Sì, abbiamo fatto una serie di esperienze mirate a ottenere quei dati di contenuto in acqua in base al diametro dello stipite, all'altezza dello stipite, alla distanza fra punto di azione e apice della pianta, che è la parte infestata normalmente, la palma delle Canarie. Quindi sono state esperienze originali e poi abbiamo cercato anche delle variabilità per costruire poi delle tabelle che sono parte essenziale del brevetto, delle tabelle che consentono il calcolo della quantità di principio attivo da iniettare. Ma quindi, scusi, in un viale di palme bisognerà dare dosi diverse palma per palma quasi? Sì, dosi diverse ma tabellate. Nel senso tabellate. Si fa una misura di diametro e si procede. Sì, ma cos'è, un'iniezione proprio? È un'iniezione, cioè si infigge un grosso ago di circa 50-60 cm di lunghezza. Ah. E questo ago c'ha un diametro di circa 2,5 cm, viene riempito di insetticida in una certa quantità e l'insetticida più defluisce più o meno velocemente, viene letteralmente richiamato dalla pianta. Mm. E l'altra cosa importante di cui tener conto è che le scelte, diciamo, di molecole attive che si fanno guardano molecole a lunga persistenza, quindi molecole che restino attive per 2 mesi, 3 mesi, e questo consente di fare relativamente pochi interventi. Certo. Però l'ago resta dentro, cioè un ago che viene messo. Interessante è che l'ago resta dentro, non tanto per la pianta, le palme non soffrono assolutamente. Immagino. Cioè, basta andare a farsi un giro a Malta, dove ci sono molte palme offese dalle granate della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che questo funziona, la sostanza che voi mettete funziona, viene attratta, succhiata dalla pianta, però non danneggia in nessun modo, perché in realtà è una sostanza che danneggia solo l'insetto. Beh, è larve. Quindi tipicamente non dovrebbe danneggiare la pianta. Insomma, la cosa importante è che poi naturalmente la pianta va seguita negli interventi, cioè non si può pensare di farlo oggi, poi fra 2 anni, cioè la pianta va tenuta regolarmente avvelenata e d'altro canto il pesticida è sigillato all'interno della pianta, quindi non ci sono problemi ambientali. Certo. Senta, ma non è costoso, cioè c'è un ago per ogni... No, guardi, si riesce a ottimizzare. I costi materiali, i costi di produzione sono, oserei dire, bassissimi. Ah, buono questo. Quelli che incidono sono veramente bassi, quelli che incidono sono i costi di lavoro, perché come sa le palme spesso sono alte e quindi è da considerare il costo operaio, il costo trabattello, il costo cestello, in area urbana c'è da considerare il fermo traffico, ecco, diciamo, i costi sono questi. Beh, insomma, come la manutenzione però delle piante dei nostri viali, classica. In effetti, sono tecniche dedicate ai manutentori del verde urbano. E sembra che alternative non ce ne siano. Ecco, io una cosa volevo capire, se, dunque, stiamo parlando di questo sistema, voi l'avete già chiaramente testato, siamo partiti con una sperimentazione in Siria, a Malta, in Italia, e diciamo la sperimentazione in più regioni d'Italia, più situazioni in Italia, e la sperimentazione, diciamo, si può considerare chiusa. È andata bene? Sì, è andata bene, perché le piante sono state salvaguardate per 4 anni. E ora in che fase siamo? Ora siamo nella fase che ci dispiaciamo, in realtà. Di che perché, cosa? Perché le politiche, chiamiamole così, che sono state legittimamente adottate, sono state politiche completamente diverse dal nostro suggerimento. No, scusi, qui lei dicendo che abbiamo trovato il sistema per impedire questo disastro e però non lo stiamo applicando? Ah, perfetto. Ah, poi chiedo scusa, il brevetto è proprietà dello IAM, dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Sì, certo. Che non avevamo citato, però finora merita di essere citato. No, citiamolo, ma cosa si sta facendo allora? Cioè, il punto ruolo sta andando dove vuole? Cioè, lei dice che le amministrazioni, anziché adottare questo sistema, cosa fanno? Si girano un po' dall'altra parte? No, le amministrazioni hanno avuto indicazioni avverse, cioè nel senso di... Hanno avuto suggerimenti di usare altri sistemi. Ma perché viene usato insetticida che si ritiene dannoso anche per altre possibili ricadute? No, fu suggerito l'uso delle trappole. L'uso delle trappole che, seppure esiste in letteratura, però insomma sostanzialmente è come aspettare che la volpe venga a porsi sotto la carabina, diciamo così. Cioè sarebbe molto ma molto meno efficiente questo? No, sì. E sarebbe meglio prevenire forse? No, soprattutto proteggere. Proteggere, perché diciamo le trappole sono utili e sono efficaci in situazioni di datteri o di palme a usi appunto come piante economiche, dove la pianta è normalmente sacrificata dopo un breve lasso di tempo, perché diventa troppo alta per essere raccolta, per i motivi più vari, perché il Ministero finanziò quasi subito un grosso progetto di ricerca diciamo di sperimentazione, chiamiamolo così, di ricerca applicata. Sì. E questo progetto purtroppo non ha portato dei risultati diciamo attesi o particolarmente spendibili. Però c'è una difficoltà, nel senso che ci sono state delle direttive contro le quali non si può andare, perché vanno comunque rispettate. No, certo, capisco. Però insomma, qui siamo in una situazione di impasse. Se continua così finiremo per truccare le palme da lampioni, che però certi bisognerà viali... rimuoverle in qualche modo. Diciamo che io all'epoca, all'inizio di iniziazione, feci una previsione che la cosa si sarebbe rallentata, perché ci sono dei fattori legati alla capacità di dispersione dell'insetto. Si sarebbe rallentato quando fosse rimasta una palma ogni circa 4 km e mezzo quadrati. No, certo, se penso ai viali delle nostre città di mare... Ce n'è una ogni 4 metri. Attimo, quello che stanno facendo, diciamo, è di usare intensivamente insetticidi, cioè quindi per bagnature, anche se questo non è proprio permesso dalla legge o può essere rischioso per la salute. D'altro canto, diciamo, le amministrazioni sono state lasciate un po' a loro stesse. E d'altro canto le amministrazioni locali vogliono essere lasciate loro stesse, perché sono centri di spesa, cioè vuol dire sono centri decisionali, non sono soggetti a decisioni, diciamo, verticistiche. Sì. Però diciamo che noi come Mebius adesso andremo a vedere un po'. Cercheremo un po' di capire. Avendo sentito lei, andiamo a capire perché non riusciamo a mettere in moto. Niente, Porcelli, con questa notizia non troppo bella, insomma, non ci lascia allegri, però insomma cerchiamo di capirne un po' di più e sicuramente ne riparleremo, ci risentiremo. Torniamo su questa cosa in un'altra puntata. Resto a disposizione. Grazie mille. Arrivederci Emanuele. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Alberto Agliotti è andato a procurarsi due guanti spaziali, ma nel senso letterale del termine. Ascoltate. Qui si fa una fatica incredibile, cioè sì, le dita le riesco a muovere, però Paolo Ariano. Sì, tieni conto che potrebbe essere anche peggio, finché sei qui è un conto, ma quando sei da un'altra parte... Eh sì, quando sei lassù, insomma, diciamo... Lassù vuol dire a 300-400 km d'altezza, dove orbita la Stazione Spaziale Internazionale. Quaggiù invece siamo al Centro per la Robotica Umanoide Spaziale dell'Istituto Italiano di Tecnologia, al Politecnico di Torino. Paolo Ariano, fisico, è ricercatore in questo istituto e stiamo maneggiando, provando a muovere un guanto del tipo di quelli appunto che sulla Stazione Spaziale, o meglio all'esterno della Stazione Spaziale, gli astronauti usano per le missioni extraveicolari. La chiamano passeggiata, ma insomma una faticaccia, non è tutt'altro che una passeggiata. È una passeggiata per quanto riguarda probabilmente le gambe o lo spostamento di traslazione intorno all'astronave. Dopodiché invece usare le mani è tutt'altro conto. È per questo che ci è stato commissionato una linea di ricerca, comunque un lavoro dall'Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con delle aziende aerospaziali qui del distretto piemontese, per sviluppare un dispositivo che aiuti l'astronauta a lavorare più ore all'esterno del veicolo. Ecco, perché spieghiamo bene. Allora, il guanto serve per proteggere ovviamente l'astronauta all'esterno della stazione spaziale, e però l'astronauta è all'esterno perché deve compiere del lavoro e quindi muovere le mani, e lo fa per appunto 7-8 ore di seguito maneggiando degli strumenti e fa una certa fatica. Quali sono i problemi? Cioè, perché questo guanto è così faticoso da usare, e quindi poi quali sono le soluzioni che voi progettate? Due fondamentali problemi, parto dall'esterno. Uno è il problema di non avere la sensibilità, quindi se tu hai un guanto che è formato da 3-4 strati, si può provare a casa, vi mettete un guanto di gomma, di quelli da cucina, poi sopra ci mettete un bel guanto di lana, poi ancora un guanto di paille, e provate ad aprire il rubinetto, a fare qualche lavoro di fino anche magari, e inizierete a percepire che la sensibilità tattile è banale da dire, ma l'avrete persa totalmente. Il secondo problema invece è la fatica, perché piegare tutti questi strati, bisognerebbe poi provare il guanto nelle condizioni extraveicolari, quindi una differenza di pressione, comunque delle condizioni ambientali che lo rendono ancora più faticoso da piegare. Sì, perché dentro al guanto ovviamente ci deve essere una pressione come quella che ci sarebbe in atmosfera o a bordo della stazione spaziale, invece all'esterno siamo nel vuoto e quindi la differenza di pressione è notevole, insomma. Assolutamente, assolutamente. Qui abbiamo anche abbiamo sviluppato un simulatore di guanto che non ha bisogno di pressione, niente. Abbiamo messo delle barrette di metallo in dei guanti da cucina, fondamentalmente. Quindi uno può provare a mettersi due o tre guanti, poi in questi guanti mette anche delle barrette di metallo e poi prova a fare un buco nel muro col trapano. Capirà che la sensibilità appunto è nulla, quindi da lì la necessità di sviluppare qualcosa per aumentare la sensibilità, e poi che la fatica aumenta enormemente dopo i primi 15-20 minuti di lavoro. Quindi lavoriamo sui due fronti: da uno aumentare le capacità dell'astronauta, si chiama empowerment, dargli più potere, fa venire in mente i cartoni animati giapponesi di 30 anni fa, quindi questi esoscheletri metallici, infatti poi vedremo magari più avanti che si chiama esoscheletro, cioè uno scheletro che ricopre, che è esterno e che aiuta a fare il movimento. E poi la parte più esterna, quindi esterna al guanto, di pelle artificiale che invece ridà la sensibilità perduta. C'è poi un sistema intermedio che serve a controllare questo esoscheletro, cioè a capire le tue intenzioni, se vuoi chiudere la mano, aprire la mano, comunque capire qual è la tua intenzione. E su questo, anche su questo piano stiamo lavorando qui in ITI a Torino col gruppo di fisiologia artificiale, ci occupiamo di controlli artificiali, come si può controllare un device in genere, uno strumento, un esoscheletro di questo tipo. Potremmo utilizzare, e li utilizziamo onestamente, dei sensori di pressione sviluppati sempre qui da noi, quindi più premo sull'esoscheletro, più l'esoscheletro mi darà forza, oppure andare a registrare quella che è l'attività dei muscoli. Ci sono delle tecnologie che sono ormai consolidate, si usano da 30-40 anni, che si chiama elettromiografia, magari qualcuno l'ha già fatta anche, sono dei test medici che si fanno in ospedale di routine, cioè l'elettroencefalogramma che registra l'attività del cervello, l'elettromiografia che registra l'attività dei muscoli. Sono dei sensori superficiali che vengono messi sulla pelle, per esempio, dell'avambraccio, e che registrano l'attività elettrica dell'avambraccio in questo caso. Perfettamente, sì, sono, volendo semplificare, sono delle placchette di metallo, dei pezzi di carta stagnola messi sull'avambraccio, registrano l'attività elettrica che noi non percepiamo, ma che se andiamo a toccandoci l'avambraccio non sentiremo delle scosse elettriche, sentiremo i muscoli che si contraggono o si rilasciano, ma questa contrazione, rilascio dei muscoli, quindi mettendo una mano sull'avambraccio la sentiamo, genera dei piccoli potenziali elettrici che possiamo rilevare con degli strumenti neanche poi troppo complicati, alla fine sono degli amplificatori che vanno a registrare l'attività elettrica, proprio come si fa, forse avremmo visto tutti, per il cervello, si può fare su tante altre parti del corpo. Quindi noi registriamo quell'attività elettrica lì e su quella, decodificandola, capiamo cosa sta facendo la mano, facciamo un po' di reverse engineering del movimento della mano. Quindi, ricapitolando, l'astronauta fa il movimento, facendo il movimento contrae i muscoli, l'apparecchiatura che voi sviluppate, il sensore, insomma, registra questa contrazione e quindi dice all'esoscheletro qual è il movimento che l'astronauta sta facendo, e così l'esoscheletro può aiutare a farlo. Il problema è riconoscere proprio effettivamente qual è il movimento giusto, insomma. Decodificare i segnali che arrivano dal corpo umano, qualunque essi siano, non sono di facile interpretazione. Rimango solo sull'esempio dell'avambraccio, ci sono più strati di muscoli e noi stiamo registrando solo sul primo strato, non parliamo di registrazioni invasive, quindi non ci sono degli elettrodi che entrano nel braccio, noi ci appoggiamo delicatamente alla superficie, anche perché dobbiamo registrare per ore e ore, quindi non vogliamo essere assolutamente invasivi, quindi ci stiamo appoggiando sulla superficie e stiamo registrando da più muscoli e a più livelli, quindi immaginate di appoggiare l'orecchio alla porta e cercare di sentire cosa succede due o tre stanze più in là e magari da più persone che si parlano una sull'altra. Non è banale estrarre l'informazione che ci serve in questo contesto, e quindi si utilizzano sia degli elettrodi particolari, stiamo lavorando sulla configurazione dell'elettrodo, quindi sull'interfaccia tra l'elettrodo e la cute, stiamo lavorando sulla parte software, quindi di riconoscimento, quindi di classificatori che riescano in tempo reale a riconoscere qual è il movimento. Ci sono non pochi problemi da risolvere, però siamo sulla buona strada. In questo momento riusciamo a riconoscere 11 movimenti col 98% di confidenza, siamo abbastanza soddisfatti in questo momento. La struttura deve un po' anche imparare, perché poi la configurazione del braccio non sarà la stessa per tutti, non è proprio una cosa immediata. Diciamo che gli obiettivi di questa registrazione sono tre. Uno è capire il movimento che si sta facendo. Due è capire anche la forza che sto facendo, perché io posso prendere un bicchiere di plastica vuoto, la conformazione della mano è la stessa che utilizzo per prendere il manico del trapano, fondamentalmente l'impugnatura del trapano. Utilizzerò due forze diverse, quindi registro anche la forza che devo fare. E tre è l'attività di ricerca un po' più avanzata e che è anche un po' più complicata, su cui la letteratura non è uniforme. Ci interessa capire anche il livello di fatica dell'astronauta, cioè immaginiamo un po' il livello, l'indicatore della quantità di bombole, cioè l'indicatore di ossigeno che hai nelle bombole del sommozzatore, che a un certo punto gli segnala che l'ossigeno sta finendo. Noi vogliamo fare un po' la stessa cosa con la quantità di forza che hai ancora nei tuoi muscoli, un indicatore che dice all'astronauta: guarda che forse hai ancora 15 minuti di attività residua, ti conviene rientrare. Quindi, sempre registrando come varia l'attività muscolare nel tempo, siamo in grado di dire quello che viene definito il tempo alla fatica, cioè quando insorgerà la fatica e quindi quando potenzialmente, continuando la tua attività fisica con lo stesso livello di impegno, potrai incorrere in crampi o altri problemi. Quindi sapere che devi ridurre la tua attività o comunque rientrare potrebbe essere interessante. Quindi sono tre parametri che registriamo: la posizione, la forza e il tempo alla fatica. Finora noi abbiamo parlato di astronauti, però tutto quello che si studia nello spazio e per lo spazio ha sempre poi un risvolto, un'applicazione che può servire sia per le missioni future, quindi restando nello spazio, sia per invece le applicazioni terrestri. In questo caso una cosa di questo genere potrebbe servire per controllare non necessariamente il guanto di una persona che si trova al di fuori della stazione spaziale, ma magari per controllare una protesi che potrebbe essere un braccio robotico, quindi l'astronauta se ne sta bello tranquillo all'interno e manovra qualcosa che c'è fuori, oppure appunto sulla Terra può essere una protesi di una persona che ha bisogno di muovere una mano artificiale. Sì, certo, ci occupiamo di applicazioni spaziali, però le applicazioni spaziali devono poi sempre prevedere una ricaduta terrestre. Gli esempi più banali sono i pannelli solari o il velcro, sono tecnologie che dallo spazio sono proprio ricadute sulla Terra. Anche in questo caso qua uno sviluppa una tecnologia avanzata con dei limiti e dei vincoli molto stretti che abbiamo nello spazio, per poi riportarli su Terra magari con meno vincoli, quindi è più semplice utilizzare questa tecnologia sulla Terra. Magari avremo batterie più performanti sulla Terra perché abbiamo più spazio, abbiamo più tempo, possiamo ricaricarle più facilmente, quindi sarà più facile riadattare le tecnologie sviluppate per lo spazio in ambiente terrestre. Hai fatto un buon esempio, di sicuro le protesi, ad esempio per gli amputati all'avambraccio, potrebbe essere un'applicazione, perché si tratta sempre di registrare attività elettrica, biosegnali, segnali bioelettrici, si possono chiamare in diversi modi, segnali elettromiografici, dove mio sta per muscolo, quindi registrare l'attività muscolare dalla parte residua di muscolatura per comandare una protesi. In questo momento noi stiamo lavorando sull'avambraccio, però potrebbe pilotare una protesi anche di gamba o di altre parti del corpo che devono essere sostituite. Quindi in questo caso qui il controllo delle protesi è una delle potenziali applicazioni, credo sia la più interessante, che anche per un risvolto sociale delle nostre ricerche, cioè ricordiamoci che sono soldi pubblici che devono poi ritornare in qualche modo al contribuente, quindi è giusto che abbiano un risvolto sociale non indifferente. Tornando nello spazio, abbiamo detto che siamo al centro di robotica spaziale umanoide. Ma perché umanoide? Bellissimo. Fondamentalmente per due aspetti. Uno è, immaginiamoci di voler colonizzare Marte, quindi ore, giorni, mesi di viaggi e poi anche lì ore, mesi di lavoro, magari in ambienti parecchio ostili per l'essere umano. Quindi non ci saranno solo gli esseri umani a lavorare alla costruzione di una futura stazione su Marte, ma dovranno essere coadiuvati da dei robot. Quindi c'è sia l'aspetto psicologico di dover lavorare con dei cubi, con delle ruote, piuttosto che con dei robot che potrebbero anche non tout court al 100% assomigliare degli uomini, ma in alcune parti essere più umanoidi like, quindi assomigliare a, in una buona parte degli umanoidi, e poi di interazione uomo-macchina, cioè sia l'uomo che interagisce con la macchina, quindi interagisce con dei canali prettamente umani, e poi di interazione con strumentazione che viene portata lassù, quindi il trapano deve essere, deve poter essere utilizzato ad esempio dalla mano dell'uomo e dal braccio robotico del, del robot, quindi interazione con lo stesso set di strumenti che si troveranno a utilizzare in quelle condizioni, quindi sia l'aspetto psicologico e sia l'aspetto interattivo con, tra l'uomo e la macchina e tra l'uomo e gli strumenti e la macchina e gli strumenti. E anche il controllo di un braccio robotico, semplicemente se ha la forma di un braccio umano, è più intuitivo ed è più facile per chi lo, lo conduce, insomma. Ma non solo, questi aspetti psicologico e di interazione, diciamo, sono, tornando alle ricadute terrestri, sono poi quelli che potrebbero riguardare la, la robotica di assistenza, insomma, per una persona anziana che viene assistita da, da un robot, avere un, fattezze il più possibile umanoide sicuramente aiuta. Sì, sì, sì. Beh, se, se pensiamo a quella che va sotto il nome dell'aging society, cioè della futura società che ci aspetta, un forte invecchiamento della popolazione nei prossimi 20 anni è previsto da parte dei sociologi, abbiamo dei grossi problemi di accettazione da parte dell'essere umano in generale, ma dell'essere umano anziano in questo caso, di fronte alla tecnologia, cioè perché dovrei interagire con un robot. Probabilmente il robot umanoide sarebbe di più facile accettazione. Grazie Paolo Ariano e buon lavoro. Grazie a voi. Sapete che cosa è successo? Che non abbiamo più tempo, nemmeno dei secondi, per raccontarvi qualcos'altro. Però vi aspettiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.